Incontri di Gianfranco Fabi. Magdalene Notice, questa canzone di Jody Mitchell, iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera ad Alberto Contri. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Alberto Contri, presidente di Pubblicità Sorgresso, però parliamo di questa canzone Jody Mitchell, queste lavandaie di Magdalene Notice. Sì, questa è una storia molto triste, devo dire, una canzone molto appassionata e visto che mi occupo di Pubblicità Progresso, la potremmo definire una canzone sociale, perché è una canzone di denuncia di un fenomeno gravissimo che è durato per circa 300 anni, dal 1700 in poi, in cui le figlie delle buona famiglia della società irlandese che avessero avuto un figlio fuori dal matrimonio, spesso purtroppo messe incinte da padri o da fratelli, venivano poi segregate in queste lavanderie e dove venivano messe a lavorare per tutta la vita, schiavizzate, e i proventi venivano poi trattenuti per questa cosiddetta charity. E poi devo dire c'è stata una denuncia di una di queste che è riuscita a scappare, ha creato tutto un grande fenomeno per cui sono stati ottenuti un sacco di risarcimenti anche dagli eredi, è stato fatto un film anche recentemente qualche anno fa presentato al Festival di Venezia, molto commovente, quindi mi sembrava perfetto, oltre che essere una bella canzone, una canzone bella, ma introdurre il tema di denuncia sociale, di attenzione alla socialità, di attenzione alla società, cosa che è anche negli obiettivi di Pubblicità Progresso, e per dire anche che purtroppo nella carità ci sono anche molti possibili imbrogli. Tra l'altro è appena uscito un libro di una tua collega del Sole 24 Ore, L'industria della carità, che dice che per metà ci sono dei grossi problemi, che tuttavia non deve essere un alibi per non fare la no, carità, assolutamente, ecco. Ma per farla bene, per farla, per bene. Farla bene. E quindi questo è anche uno dei punti, dei compiti di Pubblicità Progresso. Spieghiamo che cos'è Pubblicità Progresso. Progresso è una adesso è una fondazione, è nata nel 71 come associazione del mondo della comunicazione. All'inizio c'era soltanto le agenzie, l'UPA, che sono gli investitori pubblicitari, la Federazione Italiana Editori Giornali e la RAI. Si era creato un mercato nero di sangue negli ospedali perché mancava sangue. Allora c'era in Italia il presidente della McKen-Erickson, David Campbell-Harris, che della McKen-Erickson Italia, che avendo l'esperienza dell'Advertising Council americano, che è un'associazione, un ente che esiste ancora oggi, che ha 70 anni di vita, dedicato a fare campagne sociali, decise di coinvolgere le agenzie di allora, gli utenti di allora, a fare una prova di una campagna sociale che raccogliesse sangue. Fu fatta questa prima campagna che ebbe un risultato clamoroso, perché tra l'altro veniva dopo 20 anni di carosello a base di Alemagna, Ulala, una cucagna, Calimero Piccolo e Nero, Carmen Sita, amica mia, quindi il gas venne via, comparve questo chirurgo che si toglieva la mascherina e con tono estremamente assertivo diceva: servono 2.800.000 flaconi, ce ne sono solo 700.000, questo bambino oggi l'abbiamo salvato perché suo padre ha trovato il sangue in maniera rocambolesca, tutto avviene perché tu non trovi mai 5 minuti di tempo per donare sangue, puntando il dito, nell'anno 70, 1970. E fu trovato, e poi tra l'altro fu il primo esempio di campagna di comunicazione integrata, perché si mostrava un cartello che diceva: dove trovi questa insegna vai a donare sangue. La gente rimase colpita da questo messaggio, vide negli ospedali questo cartello e andava a donare sangue. L'anno dopo fu trovato tutto il sangue che serviva. E allora, quindi è una prima campagna sociale. La prima campagna quindi sociale, sono seguite poi. No, perché una volta fatto questo esperimento, allora diciamo ringalluzziti da questi risultati, tutto il mondo della comunicazione decise di creare un'associazione dove poi entrarono tutti i media, tutte le concessionarie, via via nel tempo gli istituti di ricerca di mercato, i creativi, eccetera, eccetera, e le associazioni di relazioni pubbliche, e fu creata Pubblicità Progresso con l'incarico di fare una grande, importante campagna ogni anno. E poi nel 2004. In quel periodo, tuttavia, Alberto Contri, attuale presidente dal di Pubblicità Progresso, dal 99 eri però nella pubblicità. io ero appunto, siccome era tradizione che dopo uno più mandati, come ho fatto io come presidente dell'ASAP, che allora era l'associazione dei pubblicitari che oggi si chiama ASSOCOM, dopo in realtà si faceva un biennio come presidente di Pubblicità Progresso, che ripeto era un lavoro anche abbastanza limitato, perché si faceva una campagnetta all'anno, cioè una campagna importante, non campagnetta, diciamo. E io nel 99 sono diventato presidente, ho visto che i conti stavano andando a picco e siccome i soci pagano delle quote veramente minime, ancorché diano molti spazi gratuiti, e l'ho trasformato in una piccola fondazione sperando di trovare una qualche vedova ricca stile Guggenheim, che ecco, ci desse una mano. Non l'ho trovata, ho trovato però la fondazione Caripo, che ci ha dato un grossissimo contributo da 9 anni a questa parte, quindi l'abbiamo rilanciata come fondazione che non fa più solo una campagna sociale all'anno, ma fa un sacco di attività. Abbiamo rapporti, facciamo dei roadshow in tutte le università italiane con 85 facoltà di 44 atenei, giriamo tutta l'Italia per tutto l'anno a presentare la campagna dell'anno, facciamo dei concorsi per i giovani, facciamo questa conferenza internazionale sul tema della campagna, e quindi abbiamo una mediateca, tra l'altro, sul sito di Pubblicità Progresso con oggi le 2500 più interessanti e più creative campagne del mondo, che si possono vedere. Perché lo facciamo? Perché, torniamo al discorso un po' di prima, le ONLUS e tutte le associazioni che fanno una comunicazione veramente modesta almeno imparino a vedere cosa si fa nel mondo. Sono tutte suddivise per temi, argomenti, disabilità, AIDS, certo, malattie varie, insomma. Ecco, vediamo allora qual è stata l'ultima campagna e quale sarà la prossima. Beh, l'ultima campagna è una campagna, devo dire, di grande soddisfazione, perché casualmente ci è capitato 3 anni fa. Innanzitutto va detto come scegliamo il tema, in genere è un'intuizione del presidente, poi del CDA, della fondazione, che decide cosa fare, anche un po' sulla sensibilità del momento. Abbiamo fatto 3 anni fa, abbiamo fatto d'intesa col Quirinale proprio una interessante campagna di prevenzione degli incidenti sul lavoro, che ha avuto anche quella un discreto successo, e poi l'anno dopo siamo stati contattati dal professor Gasbarrini, che è un illustre patologo del Gemelli di Roma, il quale ci aveva segnalato che c'era una grandissima scarsità di donatori di organi. Allora ci sembrava anche diciamo interessante, a 40 anni di distanza, visto che celebravamo il quarantenale, di fare una campagna sulla donazione di nuovo, prima quella del sangue, 40 anni dopo donazione di organi. Naturalmente una campagna difficilissima, perché io devo farti pensare per un attimo alla tua eventuale morte, che è un ostacolo psicologico per un pubblicitario praticamente insormontabile. E poi devo superare anche tutta una serie di barriere burocratiche, perché in Italia devi scaricare il modulo, riempirlo, imbustarlo, spedirlo, stamparlo, insomma, tutto, quando sei arrivata alla quarta operazione ti sei già dimenticato. Invece in America basta mettere una crocetta su Facebook e tu automaticamente diventi donatore. Quindi abbiamo fatto una campagna che è a metà fra l'aspetto emotivo e poi invece l'aspetto, diciamo, dimostrativo di una serie di questioni. E anche educativo, in pratica. Esatto, pratica. Ma come abbiamo superato il problema? Innanzitutto abbiamo fatto uno spot molto commovente, ma poi quello ti rimandava a un sito, e nel sito le cosiddette FAQ, cioè le domande che la gente si fa abitualmente: ma io sarò veramente morto? Ma veramente i miei organi andranno a chi ne ha bisogno? Ma non è che c'è un mercato nero di sangue negli ospedali? Le risposte venivano, non erano 4 righe scritte, ma erano interviste girate con la tecnica del dottor House in ospedale, in sala operatoria, illustri chirurghi dei trapianti che rispondevano con molta assertività ed efficacia a queste risposte. Le risposte potevano venire immediatamente viralizzate su Facebook, sui social network. Ecco, possiamo allora a questo punto anche rassicurare quanti ci ascoltano sull'efficienza e l'efficacia di un sistema come quello italiano, che ha anche realizzato anche a livello logistico delle strutture molto... C'è il Centro Nazionale Trapianti, che controlla rigorosamente tutto. Una volta che uno... abbiamo scelto di iscriversi all'AIDO, perché è l'associazione nazionale diffusa su tutto il territorio nazionale. Appena uno si iscrive a questa associazione, il proprio nome viene messo in questo database, e nella malaugurata ipotesi, che ci auguriamo non debba mai succedere, ma si possa rendere disponibile un organo, automaticamente in pochi minuti tramite il computer centrale si viene a sapere dove, come, perché. Ed è una vita che continua. Assolutamente. In pratica, e infatti abbiamo fatto uno spot dove si vede un ragazzo che va su una spiaggia, si siede e fa un patto con se stesso, dice: non mi capiterà mai, ma se dovesse mai succedere voglio evitare male che la mia fidanzata e i miei genitori debbano essere loro a decidere, perché la cosa drammatica che avviene poi è che magari il ventenne che va sotto un autobus e la prima cosa i genitori arrivati in ospedale gli chiedono: ma scusi, lei è vuol dare l'assenso? Questi, cosa che bisogna fare in poche ore. Ma in pochi minuti, in non in poche ore, assolutamente subito. E quindi naturalmente quelli non sono certo nella condizione mentale di rispondere a domande di questo genere. Se uno ha già deciso, ha la sua tesserina in tasca, e allora poi si vede un altro ragazzo che arriva, si siede allo stesso punto, lui il primo estrae un'armonica e suona due note e poi la seppellisce, come un patto con se stesso, l'altro si siede allo stesso punto, la trova e soffia via la sabbia e la suona, e poi scatta la canzone di Pacifico che dice: tu che fai parte di me. Quindi è la metafora del passaggio dell'organo. Torneremo sicuramente su questa campagna, però prima di concludere questa prima parte del nostro incontro, il titolo della prossima campagna. Il titolo della prossima campagna è una campagna molto importante, molto difficile, sulla parità, a favore della parità di genere, quindi combattere gli stereotipi e i pregiudizi nei confronti delle donne. Ecco, vedremo come sarà questa campagna, quali sono gli obiettivi di Pubblicità Progresso, con Alberto Contri, che ringraziamo di essere stato con noi finora, ma restate con noi ancora, ci fermiamo solo un attimo per darvi le importanti notizie sul traffico. Incontri. Ancora con le parole di Johnny Mitchell, Ragnar and Lodis, la storia delle lavandaie irlandesi, delle giovani irlandesi che erano confinate appunto in questi luoghi, in cui venivano quasi segregate. Ecco, con questa storia di Johnny Mitchell abbiamo iniziato il nostro incontro con Alberto Contri, lo riprendiamo. Alberto Contri è presidente di Pubblicità Progresso. Abbiamo parlato delle campagne di Pubblicità Progresso, di quelle che sono avvenute in questi 40 anni. È iniziata con una campagna per la donazione di sangue, ripresa poi in questi ultimi mesi con la campagna per la donazione degli organi. È una campagna che ha avuto un grande successo, dicevamo, Alberto Contri. Ha avuto un enorme successo perché, pur essendo stata fatta in un periodo in cui i media, ho dimenticato di dire che una delle chiavi di Pubblicità Progresso è che i media danno gli spazi gratuitamente, e devo dire, ancorché il nostro bilancio sia risicatissimo, in realtà in termini di quantità di spazi arriviamo ad avere circa l'equivalente di 135 milioni di euro di spazi gratuiti. Ecco. Però negli ultimi anni la pubblicità È stata un po' calata, c'è stato un grande problema nella foliazione, soprattutto nella stampa, eccetera. E in questa carenza, avendo sviluppato invece queste attività nelle università e facendo una serie di concorsi in cui abbiamo coinvolto i giovani universitari delle facoltà di lettere, di economia, di marketing, di comunicazione, a cimentarsi con dei progetti di marketing non convenzionale sul tema della campagna, è avvenuto che loro si sono trasformati in un medium essi stessi, cioè sono stati veicoli di realizzazione di questa campagna. Quindi aver raccolto 44.000 nuovi donatori in 18 mesi è stata una cifra spaventosamente alta. Cosa vi ha detto Napolitano quando avete presentato questa campagna? Assolutamente entusiasta, dato presente c'era il ministro della salute che abbiamo invitato, e gli abbiamo comunicato che grazie ai nostri rapporti abbiamo parlato con Facebook Italia, raccontando dell'esperienza americana. Dico, da quando in America è stato possibile mettere una crocetta semplicemente per diventare donatori, le donazioni sono aumentate in maniera esponenziale. E allora in Italia è un po' più complicato. Le abbiamo spiegato che basta un piccolo decreto, si è detto subito interessata a fare questo decreto che renda possibile queste cose. Quindi, essendoci presente anche il direttore Nanni Costa, direttore del Centro Nazionale Trapianti, abbiamo chiuso il circuito, quindi abbiamo ottenuto in questo incontro, che poteva essere un puro momento di festa così intorno al Presidente, certo, un impegno. Un impegno anche ulteriore. Poi bisognerà vedere se dopo il decreto c'era bisogno di un decreto attuativo, di una circolare, di una cosa applicativa. Speriamo che lì. Ma l'attuale ministro della salute vedo che è una persona molto attenta, quindi speriamo bene. E abbiamo parlato anche, accennato alla prossima campagna che state preparando. Molto difficile, anche qua siamo stati interpellati da varie parti tempo fa per fare una campagna contro la violenza. Noi abbiamo coinvolto, come sempre, l'Istituto di Ricerca Sociale, e è emerso in varie riunioni che la violenza in realtà è l'ultimo atto di una lunga filiera che viene da lontano, che nasce dagli stereotipi, che nasce dai pregiudizi, che nasce dal considerare la donna un oggetto e non un soggetto, e che quindi fare campagna contro la violenza, sì, ti dà un attimo di emozione istintiva, istantanea. Poi sono tutti d'accordo ricordo. Non porta nessuno, tu dici ferma il bastardo, tu dici, ah sì sì è vero, certo. Però poi non succede niente. Poi considerando anche il fatto che negli Stati Uniti non è che da quando c'è la pena di morte sono diminuiti gli assassini, quindi non basta nemmeno la sanzione. Quindi abbiamo deciso di partire da molto lontano, e partendo da molto lontano abbiamo fatto una campagna, devo dire, piuttosto coraggiosa, che ha suscitato anche qualche polemica, nel senso che ogni anno viene selezionata un'agenzia, quest'anno l'agenzia è Young Rubicam, che ci ha proposto, ci ha portato innanzitutto una serie di post apparsi su Facebook in cui si vedeva che i giovani di oggi parlano delle donne in maniera volgarissima, proprio mediamente, no? Quindi sarebbe bastato già trascrivere quelli per dire guardate che qua c'è ancora molto da fare su questo fronte, non è vero che le donne sono emancipate, cioè le donne sono ancora trattate, cioè la parità è una dichiarazione. Poi altro problema che c'è la cosiddetta maledizione del 30%, cioè le donne guadagnano mediamente dal 20 al 30% meno degli uomini, sono sottorappresentate nelle aziende e nelle istituzioni, ancora che ultimamente questa percentuale sia diminuita sempre del 30%. Le mamme che lasciano il lavoro al primo anno del bambino appena nato sono addirittura il 40%, quindi c'è tutto un problema che riguarda poi la famosa conciliazione dei tempi, cioè la vera parità la si raggiunge così. Allora abbiamo deciso di fare una campagna che quindi durasse addirittura 2 anni e che si proponesse di far sapere che esiste ancora discriminazione e poi subito dopo si passasse a una fase positiva per cercare di far qualcosa per eliminare questa discriminazione. Allora, nel far sapere abbiamo avuto un po' di coraggio, abbiamo fatto la Young Rubicam, ci ha proposto dei poster che abbiamo messo in una fermata di autobus, in alcune fermate di autobus, qui a Monza tra l'altro, e in cui comparivano delle immagini di donne di vario tipo, giovani, meno giovani, impiegate, dirigenti, ricercatrici, e con un fumetto incompleto dalle istituzioni vorrei, quando torno a casa vorrei, da mio marito vorrei, sul lavoro vorrei, e poi sono state messe lì per vedere se per caso qualche passante aggiungeva qualcosa. Avrebbe aggiunto qualcosa. Naturalmente era una provocazione fatta apposta, qualcuno ha detto che abbiamo. Però pensavamo che non l'avrebbero poi fatto e eravamo pronti a prendere le frasi che c'erano su Facebook, tanto erano firmate, e le avremmo messe noi. Invece abbiamo messo lì una candid camera e neanche in 2 giorni, ti giuro che si sono riempite delle frasi più oscene che si potessero immaginare. Abbiamo scelto le meno, siccome lo spot poi deve andare in onda nelle fasce protette, certo. Abbiamo scelto le frasi dalle istituzioni, vorrei un ferro da stiro, quando torno a casa vorrei più, e poi c'era un disegno, per sì, strada sì. Vorrei essere tromb, non si capiva, per far capire che la discriminazione esiste ancora. Poi però su questa immagine compariva un grosso sticker con un punto interrogativo verde che diceva per combattere i pregiudizi e gli stereotipi vai su puntosudite.it. Che cos'è puntosudite.it? Questo spiega anche come oggi bisogna fare comunicazione sociale. puntosudite.it, che è un sito apposito dove si va e compare. La prima cosa è una scritta che dice intervieni e si dice alle donne, comunque alle persone, a chiunque, che oggi è possibile, vedi una pubblicità sessista, chiedere di rimuoverla all'istituto, direttamente all'istituto di autodisciplina. L'80% degli italiani non sa che esiste questo gran giurì che in pochi giorni, certo, può eliminare una pubblicità. Quindi tu funziona? Funziona benissimo. Ultimamente in pochi giorni ti toglie le pubblicità che sono considerate insultanti. E quindi questa è la prima cosa. Puoi scaricare il modulo, la segnali, eccetera. Poi c'è una parte che dice conosci, un piccolo motore di ricerca che da qualunque città d'Italia o paese tu clicchi, sotto una serie di vari temi, lavoro, famiglia, assistenza ai bambini, agli anziani, eccetera, eccetera, compaiono tutti gli enti, le istituzioni, le associazioni che fanno qualcosa, che possono fare qualcosa per te sul territorio. E poi una terza cosa ancora, noi segnaliamo ogni settimana le 5 associazioni che meritano di essere ricordate, Valore D, Io Donna, Futuro al Femminile, Le Donne all'Informatica, tutto quello che può servire per. Poi segnaliamo tutti i libri, segnaliamo tutti gli spettacoli che trattano comunque questo tema e poi sulla destra compaiono tutti gli articoli che oggi sono usciti sul tema della donna e anche i vari saggi più importanti che non bisogna aver perso, eccetera, eccetera. Quindi è un lavoro lungo, di grande respiro, un lavoro educativo che promuove anche in rete tutte le associazioni che fanno qualcosa, che vengono coinvolte, e quindi si cerca, naturalmente la cosa ha fatto discutere, c'era chi era d'accordo, chi non era d'accordo, però stiamo facendo, e poi stiamo promuovendo un sacco di altre cose. Abbiamo fatto un concorso per autori della SIAE, per una canzone che diventi il tema della campagna musicale, che diventi poi un video tipo We Are The World, in cui 30 donne cantino a 30 uomini, punto su di te, 30 donne cantano a 30 uomini, punto su di te. L'anno prossimo abbiamo addirittura in mente un mega concerto tipo Amiche per l'Abruzzo, in cui tutti i cantanti e le cantanti italiani vengano possibilmente gratuitamente, e il ricavato vada per borse di studio per giovani studentesse che non hanno i mezzi per continuare. Quindi stiamo cercando di fare tutta una serie di attività, incluso come sempre i concorsi per i giovani studenti per progetti di marketing non convenzionale. Quindi non è solo il fare pubblicità sociale, ma è mettere insieme una oggi serie di iniziative. Bisogna mettere insieme vecchi e nuovi media e fare una comunicazione integrata molto articolata. Ecco, quello dei concerti mi sembra che sia un hobby di Alberto Conti, sì, anche nella sua vita, diciamo, sì, così, privata. Sì, diciamo che io ho avuto una grande passione, mai trasformatasi in professionalità vera, però a livello tale che nel 68 ho potuto accompagnare Louis Armstrong quando venne in televisione a Milano. Accompagnare, e non è solo di condurre. No, accompagnare perché io allora suonavo il contrabbasso nella Bovisa New Orleans Jazz Band, e lui venne a Sanremo, poi venne allo spettacolo Quelli della Domenica, chiamarono la banda che era allora la più famosa banda di jazz New Orleans italiana, e io ero lì dentro, e quindi è stato un evento straordinario. Suoni ancora il contrabbasso? Non sono più il contrabbasso, adesso suono la chitarra, sono diventato un collezionista, ne ho una quantità infernale dagli anni 30 in poi, e ho messo in piedi una band di 16 elementi, tra l'altro tutti elementi di gruppi famosi, da De Gregori a Amici di Dalla, Venditti, Zucchero, quindi tutta gente di grandissimo livello. Una band che si chiama BJG, Bluegrass Jazz Gospel, e facciamo questi tre generi per far capire ai giovani d'oggi da dove nasce il rock and roll, perché loro credono che Honky Tonky Woman sia un pezzo dei Rolling Stones, e invece non sanno che era un pezzo del Reverendo Johnson. Quindi anche questa 30. In fondo è un'opera educativa. È un'opera educativa di coesione sociale, di divertimento, però ogni canzone un minuto di spiegazione, il concerto piace molto, e quindi... E quindi anche su questa... Su questo fronte abbiamo trovato il modo di divertire e fare sociale. Sempre nell'ambito della comunicazione. Una comunicazione che negli ultimi anni, Alberto Conti, ha qualche problema, si legge di meno, la stampa, abbiamo detto prima, è in difficoltà, la televisione è un po' scaduta di qualità. Su questo non ne parliamo, perché purtroppo tutto quello che noi facciamo per promuovere, per esempio, mi dai un assist tremendo, perché fare tutto questo lavoro per la parità di genere, poi vedi uno spettacolo, certo, alle 10 di sera dove ci sono delle battute da trivio sulle donne, le donne presenti che ridono, e dici, beh, ma allora, cosa scusate, certo, e lo fa il servizio pubblico, allora ti viene un accidente. Ecco, la parola servizio pubblico è una parola impegnativa. Tra l'altro fra breve c'è il rinnovo della concessione, devo dire che ci sono altre emittenti che fanno addirittura delle volte molto di più, quindi in termini di contenuti. Quindi si potrebbe fare tantissimo, ma francamente vedo che c'è poca tensione. Comunque noi la nostra battaglia la facciamo sempre e non ci perdiamo d'animo. Ecco, ma a livello di comunicazione, restando sulle generali, ecco, possiamo pensare che anche questi nuovi media possano aiutare? Adesso sono presi un po' come un passatempo. Però devo dire che su questo fronte sono di grandissimo supporto, perché la gente vuol parlare, vuol discutere, vuol relazionarsi comunque. Se possiamo riempire fiumi di ore a parlare di questo, però abbiamo proprio avuto la testimonianza con la donazione di organi che se non ci fossero stati, certo, i nuovi media non avremmo portato quei risultati. Quindi la gente vuole discutere dei temi. Può andare oltre lo sfogo. Vuole andare lo sfogo, il cazzeggio, se si può usare questo termine, però vuole andare anche ad approfondire questioni, e nel nostro caso vediamo che funziona. Quindi c'è ottimismo guardando al passato e guardando soprattutto al futuro. L'unico Alberto pessimismo Conti. È lato economico, perché naturalmente lavorare sui nuovi media vuol dire fare un lavoro, non più uno spot e una pagina che poi va in onda quando può, ma continuare a mantenere in piedi un sito, un portale, con tutte le attività che richiedono spese, persone, quindi sono sempre a caccia di quattrini, con la mia valigetta. E che richiedono anche attenzione e interesse da parte di quanti seguono, praticamente tutti. E speriamo con questo programma, con questo incontro, con questa conversazione, di aver suscitato un po' di curiosità verso le campagne di Pubblicità Progresso. Vorrei ricordare il sito di Pubblicità Progresso, che è pubblicitaprogresso.org, e quello per la parità di genere, punto su di te,